spera, sogni, spera, sogni, spera, che la vita non sia vera. Sogni, spera, sogni, spero, sogni, spero, sogni, spero, sogni, che la realtà non sia vera, vera. Sogni, spero, sogni, spero, sogni, spero, sogni, spero, che la realtà non sia vera.